prima un avvertimento, o messer in giudizio, voi lo sapete il quanto, per chi sostituisce se stesso in luogo d'altri, in testamenti o lasciti, per lui che meri complici nel taglio della mano. E poi, esilio, ricordatelo bene, se fossimo scoperti.